Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio, bentrovati, sono le 16.09, sono Luca Tremolada, oggi sono in compagnia di Alessia Maccaferri, buongiorno. Buongiorno Luca. Allora, collega di Nova 24, scrive di no profit... Vai. Filantropia. Insomma, un sacco di cose per il Sole 24 Ore e per Nova. E oggi giustamente ci occupiamo di che cosa? Di eventi, di mostre d'arte, di concerti, di conferenze. Tutte cose che di solito paga un po' lo Stato e un po' i privati. Quando però, insomma, c'è crisi, c'è difficoltà, disoccupazione alta, eccetera, chi paga? Bella domanda. Anche perché dovrebbero pagare un po' tutti e due, ma in particolare oggi ci concentriamo sulle aziende. Sì, in effetti Luca, c'è questa crisi e dalle aziende arrivano ovviamente dei segnali di cautela, no? Certo, chi glielo fa fare? Chi glielo fa fare, soprattutto nel momento in cui si tagliano i budget, beh, se uno sceglie dove tagliare, taglia ovviamente la comunicazione. Però è interessante perché ci sono dei segnali in controtendenza. Oppure investe nel calcio, cioè un'altra cosa che di solito sei sicuro di avere un ritorno quantomeno d'immagine. Cioè l'investimento in cultura... In arte o in concerti, in eventi, insomma, conviene. È più rischioso, hai ragione. Infatti è per quello che forse lo fanno anche. Però, sai, il trend sta cambiando. Io mi sono segnata qui alcuni numeri e pensa, nonostante la crisi, la Camera di Commercio di Monza e Brianza ha fatto questa indagine nazionale e rileva che c'è stato nel corso dell'ultimo anno un taglio del budget investito nella cultura da parte delle piccole e medie imprese del 17%. Però poi si viene a scoprire che a Milano c'è una percentuale di imprese che dice, beh, c'è la crisi, è vero, però nonostante questo io continuo a investire, anzi incremento, e queste imprese sono circa il 20% del totale, continuo a investire in cultura. C'è una parte che nonostante la crisi continua a crederci. Tu pensa che anche il FAI, il Fondo Italiano per l'Ambiente, l'anno scorso ha raccolto complessivamente dal mondo imprenditoriale 6 milioni di euro, che sono circa poco meno della metà del totale dei finanziamenti del FAI, da parte delle imprese che non vogliono solo fare la classica sponsorizzazione, ma vogliono fare co-marketing, vogliono fare eventi, vogliono fare partnership di lunga durata. Tra l'altro non sicuri di avere un ritorno diretto, perché poi mettere il proprio marchio sulla maglietta di un giocatore di calcio, sai che viene ripreso da tutte le televisioni del mondo, certo. Ok. Già investire in un museo piuttosto che in un altro tipo di evento, sì, insomma, quante persone lo vedono? E poi, cioè, rende l'investire in cultura? Cioè, c'è un misuratore? Cioè, oggi ci poniamo, oggi sarà una puntata di domande, sì. Ci poniamo un sacco di domande, non siamo sicuri di darci una risposta, però ci proviamo, ma soprattutto andiamo a sentire e a capire direttamente dagli imprenditori che, insomma, stanno lavorando su questo tema. Non abbiamo scelto degli imprenditori un po' particolari, Non è Jimi Hendrix l'imprenditore, pace all'anima sua, no. Era Ejo, era un bellissimo assolo di chitarra elettrica, anzi non di una chitarra elettrica qualunque, ma di una Fender. Ecco perché noi abbiamo in collegamento Patrizia Bauer da Bologna, presidente di Casale Bauer, cioè l'importatore della Fender, e non solo della Fender, in Italia. Buongiorno. Salve, buonasera, ho sentito Ejo e ho capito che entravo in scena anch'io. Esatto, allora, buongiorno, buon pomeriggio, io sbaglio sempre, però sentiamo una scheda che ha redatto Alessia Maccaferri su di lei. Nata a Bologna da padre austriaco e madre italiana, Patrizia Bauer ha fatto della musica il suo lavoro e la sua passione. Laureata in economia e commercio, oggi è presidente dell'azienda di famiglia, Casale Bauer, fondata nel 1948 nel capoluogo emiliano. Il padre Hans si assicurò nel 1962 la distribuzione esclusiva per l'Italia degli strumenti musicali di Leo Fender, che hanno segnato la storia del rock. I brani preferiti da Patrizia Bauer? We Will Rock You dei Queen e I Say a Little Prayer, cantata da Whitney Houston e Natalie Cole. Buongiorno signora Bauer, noi volevamo parlare con lei perché la prossima settimana, l'11 dicembre, inaugura a Bologna questa mostra che si intitola Love Me Fender al Museo della Musica di Bologna, una mostra di arti visive. Perché avete scelto di sostenere questa mostra? Buon pomeriggio Alessia. La nostra azienda, come avete detto prima nella scheda mia di presentazione, si occupa dell'importazione e della distribuzione di strumenti musicali in tutto il territorio italiano dal 1948. Siamo legati alla musica in senso stretto e a tutte le arti e a lei connesse. Di conseguenza ci è sembrato anche abbastanza naturale poter pensare a una mostra d'arte contemporanea ispirata alla mitica chitarra Fender che ha scritto innumerevoli pagine di rock. È già da un po' di anni che pensavamo a questa idea insieme all'amico Luca Beatrice, e quest'anno a febbraio-marzo abbiamo dato il là per cominciare a progettare. Ma perché? Va benissimo, nel senso, però insomma la cosa che noi ci chiediamo è, ma insomma non è che sono tempi meravigliosi, però cioè perché agire sul territorio, e soprattutto è facile agire sul territorio, è facile organizzare, c'è un ritorno da questo tipo di iniziative? Allora, diciamo subito una cosa, che il mercato degli strumenti musicali, come tutti i mercati che hanno a che fare con i settori culturali, sono anticiclici, quindi in tempi di crisi mantengono le loro posizioni e di conseguenza... Cioè, la chitarra si vende comunque, cioè il musicista non rinuncia alla chitarra, ecco. Come dice? Al musicista non rinuncia, insomma. Non si rinunciano alle emozioni, non si rinuncia. Il prodotto culturale è anticiclico di per sé, risponde a degli altri bisogni. Di conseguenza abbiamo cercato di immaginare come una mostra potesse essere dislocata sulla nostra città di Bologna, perché Bologna comunque ha un'eccellenza musicale, ha diverse eccellenze musicali, pensiamo all'orchestra Mozart, pensiamo al fatto che è stata denominata come capitale della musica dall'UNESCO, e ha un museo della musica che è meraviglioso, nel quale già nel 2004 noi abbiamo fatto sempre una mostra per i 50 anni della Stratocaster. E così abbiamo prospettato al museo anche questa volta di fare questo tipo di discorso e ci hanno entusiasticamente accolto, quindi c'è sicuramente un buon dialogo con l'amministrazione locale, che è sensibile a fare progetti di questo tipo. Lei citava prima Luca Beatrice, che è stato il curatore del Padiglione Italia alla Biennale, quindi se ho ben capito vedremo delle opere di arte visiva, però voi importate chitarre, quindi che cosa vedremo nella mostra? In mostra ci sono opere inedite commissionate da Luca Beatrice a una serie di artisti, opere molto particolari, molto belle. In più ci saranno delle chitarre messe a disposizione, prese dalla nostra collezione, chitarre anch'esse molto particolari, alcune sono dipinte. Cioè, quindi non avete fatto solo una vetrina, cioè avete fatto qualche cosa di diciamo geneticamente diverso dal metto in vetrina la Fender, che è bellissima, però è un oggetto commerciale. Assolutamente, c'è tutto un percorso culturale che si snoda attraverso le bellissime sale del Museo della Musica, che è un vero e proprio gioiello, e con didascalie che spiegano il perché anche del legame tra l'opera. Quanto è costato fare una cosa del genere? Io sono un genovese, per cui guardo queste cose. Costa tanto l'investire in questi tipi di operazione? Oppure costa investire in questo tipo di operazione? Ci dica qualcosa, qualche numero. Riteniamo però che ci sia un ritorno assolutamente valido, uno perché è un prodotto culturale, comunque si fa qualcosa per la comunità in cui si vive, per un tessuto sociale nel quale si opera, insomma. Cioè, poi vendete più chitarre, no? Ecco. Però poi non è che vendete più chitarre, o sì? Non credo che questo ci farà vendere direttamente più chitarre, farà probabilmente capire un po' più a fondo probabilmente anche il mondo del rock, questa musica. Però non mi ha risposto sull'investimento, Cioè, lei vuole sapere quanto spendo? all'incirca, diamo un ordine di grandezza. Diciamo che sono cose che costano fatte bene, certo, ci sono persone di primaria professionalità che vi operano e di conseguenza ha un costo, però non credo che sia l'oggetto più importante della nostra conversazione. Ci scriveranno tutti i nostri ascoltatori. Ma tra l'altro è vero che c'è un rapporto, mi diceva anche Alessia, c'è un rapporto morboso tra la Fender e i musicisti? Beh sì, sicuramente la chitarra è per il musicista o per chiunque, sia esso un artista o un dilettante, insomma, c'è un rapporto molto fisico, come ce lo insegnava anche il buon Jimi Hendrix. Ma voi avete anche colori con la chitarra. Anche cantanti famosi che vi chiedono, non so, personalizzazioni, cioè sì, assolutamente sì. Fender stessa fa delle personalizzazioni dedicando delle tribute series come a Jeff Beck, Stevie Ray Vaughan, Clapton e quant'altro. Anche noi in Italia abbiamo percorso questo itinerario facendo fare una artist signature series per Dodi Battaglia, che è il chitarrista elettrico in Italia per antonomasia, nonostante la sua appartenenza a un gruppo pop, è veramente un grandissimo chitarrista elettrico. Quindi se la fa fatta bene, cioè non è che le prende la prima... Come dice? Cioè la studia bene, la chiede delle cose particolari. Sì, delle cose particolari, delle personalizzazioni su quello che sono i microfoni, i pick-up, i legni della chitarra, i particolari tecnici, certo, e anche le caratteristiche estetiche. Ecco Bauer, ci chiedono da dove si importano le chitarre, lo chiede Cesare. E me lo da chiedo dove anch'io. Si importano? Sì. Dov'è che le... Dunque, Fender ha fabbriche in America, in California e voi in Messico. In particolare da dove le noi importate? Compriamo strumenti musicali da tutto il mondo, la produzione mondiale di strumenti musicali è concentrata in America, Giappone, okay. Corea, India e Cina, molto poco in Europa, ahimè, quasi niente okay. in Italia. Quindi fanno un viaggio lungo, insomma, credo che... fanno viaggi lunghi, sì, assolutamente ecco. sì. Alessia, proviamo a voltare pagina, non abbiamo un altro, però chiediamo a Bauer di restare assolutamente con noi, poi metti che ci voglia dire quanto ha speso, esatto. Cioè c'è un po' in qualsiasi momento. Allora, passiamo invece a Enrico Bressan, un altro, noi diciamo dei folli innovativi, insomma, che decidono di investire in eventi e in cultura, che è una società che mette insieme, insomma, imprenditori, restauratori, e ce l'abbiamo qui. Buongiorno. Buon pomeriggio, continua a dire buongiorno, lo dirò per tutta la giornata, e sentiamo la scheda che ha redatto Alessia Maccaferri su Bressan. A Venezia un tempo il Fondaco era un magazzino in cui venivano stipate le merci, era un luogo di incontro tra genti da ogni parte del mondo. A questo antico modello si è ispirato Enrico Bressan quando ha creato la sua società, che promuove il restauro del patrimonio storico e la cultura veneziana attraverso il coinvolgimento delle imprese locali. Nato a Venezia 44 anni fa, Enrico Bressan completa gli studi e indirizzo economico per ricoprire poi incarichi di gestione corporate alla Banca Commerciale nelle diverse sedi sparse per l'Italia. Ma nel 2004 sente il richiamo della Laguna e insieme a Giovanna Zabotti crea Fondaco per dare il suo contributo al rilancio della città. Enrico Bressan, buon pomeriggio. Voi a Venezia state facendo tramite Fondaco una serie di progetti coinvolgendo gli imprenditori, i veneziani. In particolare c'è un progetto Veneziani per Venezia in cui gli imprenditori, i ristoratori di Venezia, gli albergatori si prendono a cuore una parte della città. Quanti restauri sono in corso e quali sono i più importanti? Allora, sono in corso 6 restauri in questo momento, e restauri fatti da 6 famiglie differenti, quindi da 6 famiglie di imprenditori veneziani. E andiamo dalle Vere da Pozzo a delle statue di Palazzo Ducale molto importanti. Perché tra l'altro è costosissimo, cioè nel senso ogni volta che metti mano al patrimonio artistico, tra l'altro ricordiamo che su Nova, che è uscito giovedì, ma si trova anche qualcosa su Nova 100, Nova 24, dal Sole 24, dal sito del Sole 24 Ore, abbiamo fatto uno speciale appunto sulla misurazione dei beni culturali e restauro. Spot personale, prego. Però insomma, il dato di fondo è che nel momento in cui si mette mano al restauro particolare di Venezia. Sì, diciamo che la struttura della città è molto particolare, per cui il restaurare una cosa a Milano costa 1, a Venezia costa 3. Ma questo non è per bypassare il costo, se noi ci fermassimo a questo molto probabilmente avremmo realizzato poche cose. Il rapporto che noi cerchiamo di creare con l'imprenditore è quello un rapporto di partnership, non è di sponsorizzazione. Noi siamo convinti che il nostro patrimonio storico artistico a Venezia, ma io penso anche come tutta Italia, sia un valore, e su questo valore bisogna iniziare a ragionarci in modo serio e vediamo che prendersi cura di un'opera d'arte che può essere più o meno famosa, non importa, ma comunque concorre a rendere bella e unica una città come Venezia, è un qualcosa che porta l'orgoglio di appartenere a questa città, ma anche lo stimolo per l'imprenditore appunto trarre delle nuove idee da riversare all'interno della propria società, della propria azienda. E l'imprenditore come sceglie l'opera da restaurare? Allora, l'opera d'arte avviene creando un colloquio. Noi cerchiamo di capire la storia dell'azienda e la storia anche culturale, la vita dell'imprenditore stesso. Fatto questo, cerchiamo all'interno, nella città, quello che può essere un angolo, appunto un'opera che abbia un nesso molto forte. Per esempio? Beh, un esempio molto particolare e curioso è dato dal restauro dei 7 caminetti dell'appartamento del Doge di Palazzo Ducale, che viene fatto da un ristoratore di Venezia, la famiglia Marsili. E noi abbiamo inteso il caminetto, che poi fa un po' ridere perché sono delle opere d'arte anche grandi come un'intera parete del palazzo, il caminetto è inteso come la cucina. E quindi il caminetto vuol dire anche ricerca nella cucina veneziana del 500, che sono opere del 1500, e questo ogni caminetto sono 7. Abbiamo iniziato con un primo piatto che è stato creato appunto con la ricerca, e arriveremo alla fine del restauro con il 7° caminetto per fare un menù completo e proprio quindi, nella storia di Venezia. La razza è la seguente, cioè tu in base, cioè cerco di capire tu impresa cosa fai, cosa ti piace, qual è il tuo aspetto, e poi ti trovo il bene culturale, sì. L'opera, che carino, cioè io faccio chiodi, voi studiate, cioè produco chiodi e voi studiate qualche cosa che in qualche modo abbia a che fare con, e funziona? Funziona, sì. Vediamo, la cosa che più ci entusiasma e che ci rende orgogliosi di questa cosa è che si sta diffondendo come un passaparola. Ormai, anche se siamo in una sede radiofonica e comunque di un importantissimo giornale nazionale, la spesa, fra virgolette, l'investimento in pubblicità, meno quello che ci dicono tutte le aziende, gli imprenditori con le quali abbiamo lavorato e stiamo lavorando, dà molto più soddisfazione attraverso un qualcosa di diverso. È sicuramente una diversificazione totale. Faccio anche altri due esempi rapidissimi. Stiamo facendo il restauro delle 6 statue delle virtù di Palazzo Ducale con un'azienda di donne, Marina e Susanna Sente, e dalla prima statua che abbiamo restaurato è stato realizzato un oggetto di Murano, perché queste sono imprenditrici di Murano e fanno gioielli di Murano, dallo scudo di questa statua. Come il restauro di Vere da Pozzo, abbiamo coinvolto una famiglia di imprenditori, di panettieri, fra virgolette, di Rizzo, che hanno realizzato il pane Venezia, andando a riscoprire una vecchia ricetta di pane, anche di farine, che non è uso trovare. Nova Lab 24. Bentornati, Luca Tremolada, 16:34. Stiamo parlando di investimenti in cultura. Non scappate, sono un argomento tostissimo. Siamo con Ettore Bau. Ettore, ho fatto un misto tra Ettore Chiurazzi, che sentiamo tra poco, e siamo con Enrico Bressan di Fondaco, e in collegamento abbiamo Bauer, che importa strumenti Fender. Tra l'altro Mark Knopfler usa la Fender, mi hanno detto. Ok, giusto, perché ci hanno scritto chiedendo una precisazione. Insomma, ci stiamo cercando di capire perché gli imprenditori anche in un momento come l'attuale investono in cultura, investono in eventi, investono in concerti, investono in beni tra virgolette immateriali, farebbero meglio, questo era un pensiero che ci siamo detti prima io e Alessia Maccaferri, a vestire in una squadra di calcio, in qualcosa di pop ma estremamente, diciamo, più globale. Invece si punta alla cultura. Sai Luca che Enrico Bressan, che è qui con noi assieme a Fondaco, sta cercando di mettere assieme degli imprenditori, un imprenditore per il restauro del ponte di Rialto a Venezia. È legato un imprenditore magari che abbia una storia in un qualche modo legata al ponte di Rialto. Ci raccontava prima che la chiave è quella di avvicinare l'impresa a un bene culturale e insomma cercare un filo rosso insomma tra l'opera e l'imprenditore. Sì, è una cosa fondamentale questa, cioè si deve creare proprio un rapporto stretto, quasi che l'imprenditore entri dentro l'opera d'arte. Quando abbiamo, per dire, inaugurato la scorsa settimana il primo dei 7 camminetti di Palazzo Ducale, abbiamo visto l'imprenditore che guardava meravigliato la bellezza di questa opera d'arte e abbiamo visto quasi metaforicamente che di fatto a tutti gli effetti l'imprenditore entrava nella storia di quell'angolo del Palazzo Ducale. E questo è molto bello. È un po' restare eterni, sì. Cioè il nome... Ma non è la vanità dell'imprenditore. No, è la sensibilità dell'imprenditore. Tra l'altro non parliamo a caso di imprenditori, perché mi ha spiegato che di fatto le persone che stanno, almeno le persone che voi contattate, poi non sono tanto uffici marketing per noi l'imprenditore lo interpretiamo come il capitano d'azienda. L'imprenditore in quanto tale anticipa l'azienda, perché è lui che dà le direttive e gli obiettivi, quindi è lui che ha la sensibilità. L'imprenditore, come diceva Claudio Buziol, che è il titolare di Replay, che purtroppo è prematuramente scomparso, è imprenditore perché sogna, cioè l'imprenditore deve realizzare nella sua vita i sogni, e Venezia è una città che ti fa sognare, quindi è la città per eccellenza. E vediamo, per fare un rapidissimo esempio, l'altro anno con un imprenditore che non è italiano ma sto parlando di Hermès, quindi francesi, il presidente Patrick Thomas, con il quale abbiamo organizzato l'evento mondiale per Hermès sulla creatività, ci ha detto: grazie, siete stati fantastici, però mi dispiace, ci avete creato un grande problema. Ma perché? Io il prossimo anno dove vado a fare questa cosa? Ecco, andiamo su Ettore Chiurazzi. Buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, coordinatore Club Imprese per la Cultura di Confindustria. Quindi lei gioca in casa, insomma, Radio 24, Sole 24 sì. Ore, il giornale di Confindustria, lo diciamo subito. Noi ci siamo conosciuti a Bari, se si ricorda. Ricordo bene. Un convegno che appunto aveva l'obiettivo di provare a misurare l'economia, il valore dell'investimento in cultura. Insomma, se non ricordo male, si era detto, insomma, un evento non è solo la vendita di panini, la vendita di ristorazione che sta intorno a questo, è anche il valore materiale e immateriale di quello che poi nasce. Ma io su questo credo che non ci siano dubbi. Tra l'altro chi mi ha preceduto ha fatto delle considerazioni rispetto a quanto rende in termini economici un'attività. Lei aveva sollecitato questa riflessione. E francamente io comincio a pensare che quando si investe in economia intangibile, perché io amo chiamarla così, no? La cultura è un'economia intangibile di fatto, il valore che ne ritorna non è un valore economico, ecco perché la cosa diventa difficile poi valutarne i ritorni, e questo non credo che sia un aspetto determinante. In realtà il valore che torna molto spesso, almeno per l'esperienza che noi abbiamo osservato rispetto al lavoro del Club Cultura qui a Bari, è quello che ritorna anche in termini di competenze e di reti di relazioni che si mettono in circolo rispetto a questa cosa. Quindi il valore economico non è l'unico indicatore di un ritorno di investimento. Però è un valore, cioè, adesso io sostengo che un numero ci deve essere, però, cioè, io lo voglio avere un certamente numero. Però, come dire, molto spesso ci troviamo a ragionare su rispetto ad attività. Per intanto, adesso tanto per dire, il Club Cultura fa delle attività in cui non fa sponsorizzazione. Le imprese hanno scelto di essere produttori di cultura, quindi produttori di eventi. Il principio è che si progettano delle attività e per cui quelle attività, nel nostro caso in particolar modo, non è che ritornano direttamente sulle imprese. Tra l'altro tengo a dire che le attività del club stanno sotto lo scudetto del club, non sotto le singole imprese, quindi a rimarcare in realtà il ruolo sociale dell'impresa rispetto al territorio, nella sua accezione più ampia in qualche modo. Quindi il club nasce con questo obiettivo di affermare il ruolo sociale dell'impresa e in un certo senso anche dell'imprenditore come... Quindi Chiurazzi parla di ruolo, Alessia, sociale dell'impresa. Sì, sì. Sì. Ettore Chiurazzi, buongiorno. Volevo chiederle questo. Sì. Tra i tanti progetti del club ho visto in particolare che c'è un progetto che riguarda talenti per le imprese e uno si aspetta magari un progetto incentrato sulla figura del marketing e invece ci ritroviamo degli scrittori. Allora cosa c'entrano gli scrittori con l'impresa? Ma per intanto le imprese, mi ritrovo con la confermazione di Bressano quando dice le imprese, il talento, la creatività è in realtà la capacità di concretizzare il sogno dell'imprenditore. Io mi ritrovo molto sull'idea delle piccole e medie imprese che sono coinvolte più direttamente. No, perché sono quelle che stanno finanziando, perché poi di fatto le grandi imprese hanno altri canali, hanno le fondazioni. Tra l'altro il ruolo di queste piccole e medie imprese rispetto al territorio è molto più rilevante rispetto ad una grande impresa da questo punto di vista. Infatti mi scusi se la interrompo, ma a livello nazionale, Luca, sono 3 miliardi di euro investiti l'anno scorso in cultura da parte delle piccole e medie imprese a livello nazionale, che non è un dato irrilevante. Esatto, infatti. Per tornare a talenti per l'impresa, cos'è? Da dove nasce? Nasce dalla necessità di andare a scoprire un po' dove nasce la creatività d'impresa. Che non è una missione facile. Non è una missione facile perché ovviamente per intanto abbiamo dovuto fare un po' di scouting tra le imprese di questo territorio per capire quali fossero quelle che potevano essere in qualche modo poi raccontate. Poi abbiamo fatto incontrare queste imprese con 5 scrittori e quindi da questa reciproca conoscenza poi in realtà gli scrittori hanno liberamente tratto dei racconti, questi scrittori, alcuni dei quali sono giovani scrittori, ma insomma già alcuni affermati, tipo per esempio La Gioia, che scrive già da tempo, un barese che scrive a Roma, che scrive per Einaudi, insomma, e tanti altri. Li abbiamo fatti incontrare e dopodiché... Quindi voi sostanzialmente avete avvicinato lo scrittore all'azienda e poi avete chiesto allo scrittore di in qualche modo di raccontare l'impresa. Chiaramente lasciandolo libero. Ecco. Assolutamente libero. Ma domanda... non può essere inquadrato in qualche modo. Quindi è assolutamente libero di scrivere quello che voleva. Quello che voleva, se nel senso che voleva, non abbiamo dato una traccia rispetto al tono, alla forma letterale. Ecco, ma mi spieghi una cosa, cioè il confine tra un'operazione di questo tipo e la pubblicità, chi lo decide? Cioè... Ma guardi, il confine lo decide, in realtà da questo punto di vista c'è un netto confine, perché questo genere di cose non possono essere raccontate in una brochure o in una company profile, perché in realtà l'autore è capace di andare a cogliere quelle sfumature che fanno poi parte della storia d'impresa, che poi in realtà è la storia dell'imprenditore sostanzialmente, anche la propria vita sostanzialmente, per cui riconosci dietro quelle parole che c'è una verità, che c'è una sua autenticità, che in fondo tutto sommato la pubblicità tradizionale non è più in grado di trasferire. E lo dice uno che si occupa di comunicazione da 20 anni, tra le altre cose. Questo è interessante. Quindi lei crede che siano soldi ben spesi? Cioè meglio questo di uno, meglio uno scrittore che ti scrive una cosa che poi è difficile anche andare a recuperare. In questo ovviamente abbiamo fatto un lavoro proprio... c'è un curatore che ha curato le relazioni con gli autori, con cui abbiamo lavorato, insomma, stretto contatto in questo senso, quindi c'è stata fatta una selezione anche sugli autori giusti perché potessero trattare questo tipo di argomenti. Ma la cosa più interessante poi è stata anche quella della mise en espace di questi racconti, in quanto quei racconti poi sono diventeranno un libro in gennaio, lo presenteremo insomma nei prossimi mesi. Però l'altra cosa è stata quella di raccontare quel piccolo testo con una piccola drammaturgia teatrale, e questo ha reso ancora più tangibile quel racconto in qualche modo. Questo è stato insomma, un un esperimento interessante, insomma. Bene, la prossima iniziativa, abbiamo 10 secondi. La prossima iniziativa sulla quale vorremmo lavorare è il tema del rapporto con la città. Ok, mi sa che riusciamo solo a dire questo. Il tema con il rapporto della città va bene, mi sembra giusto. Io ringrazio Chiurazzi, ringrazio Bauer, ringrazio Bressano. Nova Lab 24. Allora, Luca Tremolada, 16.47, ci ha raggiunto Enrico Pagliarini che sta pistolando con il microfono. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, vedi che ha cambiato voce. Ecco. No, benissimo. Allora, domani 15.30, che ci racconti a 2024? Allora, domani partiremo con una domanda. Meglio una TV 16 noni, piatte, eccetera, eccetera, plasma o LCD? Tu LED. Cosa rispondi? No, LED non è una tecnologia. Ecco, lo sapevo che mi fregava. LED è un metodo per illuminare il pannello LCD. C'eravamo messi d'accordo prima di fare questo joke, questa gag. Sì. Però, insomma, il temone c'è. Il temone sì, sì, c'è. Si pensa che questa è una delle domande più ricorrenti sui motori di ricerca. Tra l'altro... meglio plasma LCD. Meglio plasma LCD. Tra l'altro, è uscita anche la classifica delle parole più... Sì, però YouTube. Sai... Però una parola, un mancano conto. Tutte le parolacce, ma quindi tu andrai a cercare di capire le due tecnologie sì. allo stato non dell'arte. Non c'è poi ci sarà il 3D, non c'è una risposta. Sì, infatti ci sarà il 3D, c'è il digitale terrestre, c'è il Blu-ray che ancora non è una cosa nuovissima, ma per molti è nuova. Sì, però sì. Funzionerà. Ma senti, com'è che l'analizzate l'LCD e il plasma? Cioè andate a vedere la tecnologia, andate a vedere i produttori. Beh, allora, andate a vedere... cercheremo di capire una cosa di cui abbiamo parlato altre volte, cercheremo di capire come sono costruiti questi prodotti, cioè un po' dal lato tecnologico, ma soprattutto poi dal lato utente, dal lato del salotto. Qual è il risultato finale? Anche perché, tra l'altro, cioè, io ero partito da... Almeno io dico sempre la cosa migliore è quella di vederli. Sarà poco tecnologico, sì, anche vero, se no, nasco... Un... Io nasco nerd, per cui cosa succede? Che io vado su internet, mi studio tutte le caratteristiche tecniche, vado a vedere il punto di nero, perché il punto di nero è fondamentale. Se tu vai a ascoltare alcune delle puntate di 2024 degli ultimi anni, il nero è stato uno dei temoni. Sì. Dopo che ho visto il punto di nero, vado a vedere il poi io, siccome sono appassionato di videogame, devo anche andare a vedere i chiari. Per, cui, per i videogame è meglio l'LCD, questo è sicuro. Però per tante altre cose è meglio il plasma. Infatti, però vabbè, insomma, domani poi io personalmente ho il plasma a casa, per altre cose. Posso dire, ma tu lo puoi dire in radio cosa c'hai? Io non lo dico. Io lo dico invece. Quindi, Alexia, comunque tu cosa c'hai? Io confesso di non avere la televisione. Oh, era brava. Bressan, diciamo, LCD o plasma? Il plasma. Ah, il plasma. No, allora diciamo una cosa giusto per tra i due litiganti. Adesso devi dire qualcosa a favore dell'LCD. No, dico qualche cosa a favore del tubo catodico. Cioè, ancora oggi le migliori prestazioni ce l'ha ancora il tubo catodico. Però purtroppo non si trova sul mercato. Quindi. E poi non si trova più perché è dall'anno scorso. Che hanno... Beh, qualcosa si trova, però prodotti insomma di scarsa qualità. Comunque c'è anche da dire che i nuovi formati sono 16 noni, le TV stanno cercando di proporre 16 noni. Quindi sì, ormai 16 noni credo che sia lo standard, sì. Assolutamente. E adesso poi c'è lo sguardo al futuro è sul 3D, sì. Che però lì è un po' tutta da capire. Beh, quella, diciamo, quella è una tecnologia che sta arrivando, cioè un modo di far vedere e far vivere gli spettacoli che sta prendendo tu molto ci credi? Il cinema. Tu il ci cinema, credi? Ma molto poco. Non sei un appassionato. No, sono andato a vedere qualche film in 3D. Io credo che saremmo bombardati da questo 3D, che sarà l'ennesimo modo per farci comprare televisori nuovi, per spingerci a... detto questo, insomma, la televisione la guardi per quello che c'è dentro. E oggigiorno c'è pochino, diciamo. E anche questo. Da questo, beh, certo, sì. C'è molto di più alla radio. Ci stanno sfumando, sì, c'è molto di più alla radio su questa nota lieve. Ah, fammi dire solo una cosa, domani ci sono anche gli ascoltatori che possono intervenire. Normalmente a Radio Vera accendete... a 2024 non... Okay. Sì, sì, apriamo i microfoni. Aprire il microfono. Sì, sì, sì. Chiamate in massa, Alessia Maccaferri, Bressan, ci sentiamo la prossima volta. Arrivederci. Arrivederci.